Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È il primo giorno della settimana, il primo giorno in cui reiniziano tutte le trasmissioni di Rock FM dopo il weekend. Così anche per Eclettica e così anche per Giulio Caperdoni, che vi parla tutte le sere fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM. Non solo vi parla, ma seleziona musica, seleziona letture e seleziona film. Giulio è radiorockfm.com, questo è l'indirizzo di mail che sapete di dover utilizzare per iscrivervi alla lista nera, ma anche per scrivermi. E settimana scorsa ho sollecitato il fatto che mi scriviate, che facciate i vostri commenti, che diate i vostri suggerimenti, che mi raccontiate di voi. E sono contento che questo sia successo, in modo che io potrò utilizzare alcuni di questi mail, potrò utilizzare le vostre parole per rendere Eclettica ancora più ricca. Avevo 37 anni ed ero seduto a bordo di un Boeing 747. Il gigantesco velivolo aveva cominciato la discesa attraverso densi strati di nubi piovose e dopo poco sarebbe atterrato all'aeroporto di Amburgo. La fredda pioggia di novembre tingeva di scuro la terra, trasformando tutta la scena, con i meccanici negli impermeabili, le bandiere issate sugli anonimi edifici dell'aeroporto e l'insegna pubblicitaria della BMW, in un tetro paesaggio di scuola fiamminga. È proprio vero. Sono di nuovo in Germania, pensai. Questo era l'incipit di Tokyo Blues, Norwegian Wood, di Haruki Murakami. Thank you. Lo sapevo, anzi, ne ero assolutamente certo che questo brano vi avrebbe colpito. Flock's Third, canzone monumentale da parte dei Collections of Colonies of Bees, monumentale non solo nella durata. Chi ascolta questa trasmissione, le eclettiche e gli eclettici, apprezzano nomi come quelli degli Explosions in the Sky o dei Godspeed You Black Emperor, ora hanno un nuovo nome da adorare, Collections of Colonies of Bees. Sono estremamente contento di averlo scoperto e di averlo portato alla vostra conoscenza. Ora si prosegue con una novità che mi permette anche di riallacciarmi a un ricordo personale. Ho ricevuto Bachelite, quello che è il nuovo degli Offlaga Disco Pax, a 35 mesi, avevo letto questo numero nelle note che accompagnavano il disco, a 35 mesi dall'uscita di Socialismo Tascabile, quello che è stato il loro disco di esordio. Il trio di Reggio Emilia che accompagna i brani con una serie di spiegazioni. Ventrale è quello che ci stiamo per ascoltare, Ventrale che parla di quello che successe il 12 di marzo 1978 a Milano, quando si svolgevano i campionati europei di atletica leggera al coperto, o se preferite indoor. Sto cominciando a usare le loro parole. Vladimir Yashchenko, un ragazzone sovietico di 19 anni, si presenta all'uscio, reclamando la supremazia dello sport socialista e di una tecnica di salto in alto ventrale ormai per molti superata. 190 secondi alla rincorsa dell'uomo che quel giorno riuscì a volare nello spazio, decollando dalla pedana di un palazzetto e senza nemmeno lo straccio di uno Sputnik sotto al culo. Queste erano le parole degli Offlaga Disco Pax, e quelli che arrivano invece sono i miei ricordi personali, perché in quel palazzetto dello sport, che dopo qualche anno crollò a causa di una forte nevicata, io c'ero proprio quella sera, il 12 marzo 1978, ed è stato incredibile legare il mio ricordo personale a quello che ho sentito cantare, declamare da parte degli Offlaga Disco Pax. Ero un giovane liceale allora e con un mio compagno di classe, suo padre, professore di ginnastica, venimmo a Milano per vedere i campionati europei di atletica leggera. Ho visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. Sette anni dopo quel palasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale. Una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jace Picciola e al suo amico Lech Wałęsa. Eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. Polpurista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. Vladimir Yashchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava. Se ne vada a stendere anche il Dottor Who, che con una cabina del telefono spirito dilettante. Laburista. Now it's almost dawn. I shall help you restore order tonight, but mark my words, it's the last time I shall ever do so. Is that clear? Yeah, I mean, I guess. I guess. Stop babbling, boy! Yes or no? Yes! Good! Let's ride! Yesterday was kinda like the 4th of July. The way your face lit up the entire sky. Had to look away because it hurt my eyes. The way you hit me was a big surprise. Wasn't making any sense, but it felt okay. Ask you if it was my birthday. This kind of thing don't happen every day. Quando mi è passato accanto, sono quasi caduta a terra. Mi sentivo come se uno dei miei organi interni fosse sul punto di esplodere. Ero tornata a essere preda del pensiero di quell'uomo, che ammiravo fin da quando ero alle medie, mentre passeggiavo nella zona di Aoyama, facendo shopping per distrarmi un po'. Ero giù, dopo aver fatto sesso con un cliente schifoso, e non volevo tornare subito in ufficio. Questo era l'incipit di Tokyo Decadence di Ryu Murakami. hell.